La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Dallo studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un caro saluto da Maurizio, benvenuti. Bene, abbiamo in linea Raffaella Milandri per un nuovo appuntamento con Nativi Americani ieri e oggi. Tra poco le daremo la linea. Vi ricordo che questo format va in onda ogni due settimane, per cui la settimana successiva ascolterete la replica e poi a seguire subito il podcast per potervi ascoltare in tutta tranquillità e serenità la puntata, ma non solo questa puntata, ma anche le altre quattro, perché siamo giunti al quinto appuntamento. Il venerdì scorso ci eravamo lasciati con la musica dei Nativi Americani, la musica dei contemporanei grandi artisti, con delle canzoni che hanno davvero lasciato il segno. E da quello che ho capito, credo che oggi Raffaella Milandri invece ci parlerà di musica dei Nativi Americani, però in ambito tradizionale. E allora salutiamo Raffaella. Ciao Raffaella, raccontaci subito di che cosa ci parlerai oggi. Salve Maurizio, salve agli ascoltatori di Radio Talpa. Oggi facciamo una puntata un po' diversa, incentrata sulla musica tradizionale nativoamericana, dove non mancheranno anche, insomma, comunque delle sorprese. Però ci facciamo ecco un giro, tenendo presente che poi nelle prossime puntate torneremo alla musica contemporanea e poi torneremo ancora alla musica tradizionale, quindi non ci fermiamo qui. Allora, innanzitutto ne abbiamo già parlato la volta scorsa, comunque la musica dei Nativi Americani è la musica dei popoli indigeni del Nord America, quindi Stati Uniti d'America, Canada, ma anche le Hawaii e anche il Messico, quindi il nostro giro musicale veramente spazia per tanti versi. Oltre alla musica tradizionale dei gruppi nativi americani come la musica Pueblo e la musica Inuit, che andremo a visitare la prossima volta, esistono ora anche dei generi panindiani e intertribali e altri sottogeneri come il Chicken Scratch, che andremo a ascoltare poi dopo. E la manifestazione più importante di questo genere di musica è il Gathering of Nations, che si svolge annualmente ad Albuquerque nel New Mexico. Beh Raffaella, anche questa mi sembra una puntata molto molto interessante per allargare il nostro lessico musicale. Ma ci sono stati studi sulla musica nativa americana? E senz'altro ci sono stati, ovviamente a partire poi dall'arrivo dei colonizzatori, insomma, dei bianchi. E un nome che dobbiamo tenere a mente è quello di Frances Densmore, che fu proprio la più prolifica studiosa del XX secolo, e pensate che pubblicò più di 100 opere sulla musica dei Nativi Americani. E durante la sua vita registrò dal 1907 in poi per 50 anni oltre un migliaio di canzoni eseguite da nativi americani. E il suo lavoro è stato molto prezioso perché lei in quegli anni ha registrato una musica che era eseguita da individui più anziani e ancora poco influenzati dalla tradizione musicale occidentale, e quindi ha coinvolto una gamma veramente impressionante di origini geografiche, e molte delle sue registrazioni sono ora conservate nella Library of Congress. Adesso ascoltiamo dal famoso LP Healing Songs of the Native Americans, canzoni di guarigione, The Approach of the Thunderbirds, eseguito da Kimmy Woon dei Chippewa proprio nel 1907. Certo, è emozionante sentire, no? questa musica, questa voce, questo canto che ci arriva da così lontano, da oltre 100 anni fa. Parlando di musica tradizionale, dobbiamo citare alcuni degli strumenti classici dei nativi, ma anche qui il viaggio è lungo, quindi poi vedremo come proseguirlo e come dipanarlo. Allora, innanzitutto il flauto dei nativi americani è famoso proprio per il suo suono distinto, che è stato poi utilizzato in tante registrazioni New Age, World Music. La musica di questo flauto era usata in origine nel corteggiamento, nella guarigione, nella meditazione e nei rituali spirituali. E ecco, ascoltiamo Doc Tate Nevaquaya Comanche nel brano I Saw an Eagle Fly, ho visto un'aquila volare, che è stato registrato nel 1978. Thank you. Ecco, passiamo ora a un altro strumento famoso per le sue sonorità, per, insomma, diverso e particolare, è il tamburo d'acqua irochese. Ci sono diversi tamburi d'acqua, ma quello irochese è particolare perché è un piccolo recipiente di legno a forma di coppa con acqua al suo interno e una pelle conciata inumidita, tesa attraverso l'apertura superiore. E l'umidità e la compattezza della pelle conciata producono dei cambiamenti di tono mentre il tamburo viene suonato. E ascoltiamone un esempio. Eccoci, allora siamo arrivati alla fine perché poi diciamo per mantenerci un po' con i tempi ascoltiamo, parliamo, io cerco di parlare il meno possibile, scherzo. Allora ascoltiamo adesso invece un esempio proprio di quello che è il chicken scratch, che è noto anche come musica waila. Questo è completamente diverso. Ovviamente qui si sente, no? Cioè proprio il fatto, la contaminazione dell'Europa, della musica dei bianchi che è arrivata. E questa invece è una musica da ballo che è stata, sviluppata in particolare dalla gente, dalla tribù dei Tohono O'odham. Il genere si è evoluto ed è partito proprio dalle orchestrine di violino acustico nel sud dell'Arizona, nel deserto di Sonora. E queste orchestre iniziarono a suonare brani europei e messicani, quindi diciamo siamo comunque a sud degli Stati Uniti, e in stili che includono anche la polca e la mazurka. Ascoltiamolo. Ecco, dopo questa botta di allegria, no? Proprio di musica da ballare. E sì, dai, Maurizio, allora ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. E un saluto a te e un saluto a tutti. Grazie, grazie Raffaella. Oggi siamo entrati veramente nel cuore della musica tradizionale dei nativi. Una registrazione addirittura del 1907, particolarmente suggestiva se si pensa ai mezzi di registrazione del tempo. E poi il flauto, il tamburo d'acqua. Abbiamo iniziato, grazie a te, ad imparare a conoscere degli strumenti utilizzati molto dai nativi. E abbiamo poi terminato in allegria, come già tu dicevi. Un viaggio sonoro davvero stimolante quanto inusuale. Certo che poterli vedere dal vivo avrebbe un effetto davvero magico. Beh, noi siamo pronti a continuare il viaggio sapendo di avere una guida che ci indicherà la strada nel migliore dei modi. Ancora grazie Raffaella, naturalmente vi ricordo che il prossimo appuntamento con Raffaella Milandri sarà fra 2 settimane, mentre venerdì prossimo ascolterete la replica di questa puntata. E fra 2 settimane si continuerà a viaggiare attraverso le sonorità dei nativi è un viaggio che, come al solito, ci darà tante sorprese. Vi ringrazio per averci seguiti in questo cammino odierno e naturalmente l'appuntamento con nativi americani ieri e oggi e con Raffaella Milandri è fra 2 settimane. Da Maurizio, benvenuti da Radio Talpa. Un abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.